Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Quello che sentite in sottofondo è un brano di Mustang. Mustang è dunque il vincitore del premio Lux 2015. Oggi vi parlo dal Parlamento Europeo a Strasburgo, infatti qui a mezzogiorno è stato proclamato il film vincitore di quest'anno. Mustang è una produzione franco-turca tedesca, un film diretto da Deniz Gamzer-Güven, una regista franco-turca. Una storia davvero toccante di una famiglia, di un gruppo di 5 sorelle che affrontano la complessità della loro crescita, della loro vita da bambine e ragazze quando fanno i conti con una famiglia tradizionale. Insomma, anche quest'anno il premio Lux, che appunto è stato conferito. Sentire insomma un momento, una sonorità. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.